donna immobile, qual più mal vento muta d'accento e di pensiero, sempre un amabile leggiadro viso, in pianto, in riso, menzognero. La donna immobile, qual più mal vento muta d'accento. Affida chi le confida, mal colto il cuore, pur mai non sente di felice a pieno, chi su quel seno molli l'amore. La donna è imbattita, quasi un malvento, muto da gioia.